Ehi! Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza! La stampa! La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente! Crack finanziario, chi paga il crollo delle borse? Il terremoto finanziario prodotto dalle banche rischia di contagiare l'economia reale, togliendo ossigeno alle aziende, mentre all'orizzonte appare lo spettro di una grave recessione che minaccia soprattutto i lavoratori dipendenti. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Ecco, io vi sto leggendo l'apertura del servizio del settimanale L'Espresso, che appunto dedica la copertina di questa settimana proprio a chi paga il crollo delle borse. I risparmiatori, certo, si legge in copertina, e ora anche le imprese, le grandi molto indebitate e le piccole che non trovano il credito, e poi i lavoratori che rischiano di perdere il posto. Insomma, uno scenario abbastanza pessimistico, quello dell'Espresso, ma se noi vogliamo andare a, come dire, a leggere un'analisi attenta, devo dire molto documentata come solito, è il Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore alla pagina 16 dedica, sono Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi del Centro Studi del Sole, che propongono un'analisi che ci spiega come la finanza morde ormai sull'economia reale. Difficile evitare la recessione per Europa e USA, ma calano petrolio e costo del denaro. E vediamo cosa scrivono Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi. Un lungo periodo di crescita nulla si profila per i paesi industriali. La crisi finanziaria ha sparso sale sulle ferite inferte dagli shock delle materie prime e dello scoppio della bolla immobiliare. Da soli questi due shock sono sufficienti a provocare la recessione che era attesa per la seconda metà del 2008 con code al principio del 2009. Tanto più che si sommano all'inevitabile aggiustamento americano. Negli USA il riequilibrio dei conti con l'estero e il ritorno delle famiglie a una maggiore parsimonia dall'attuale risparmio zero comportano l'esportazione di impulsi frenanti al resto del mondo. Questo leggiamo sul Sole 24 Ore a proposito di quello che potrebbe avvenire, cioè il trasferimento della crisi finanziaria all'economia reale. Scrivono ancora Fabrizio Galimberti e Luca Paolazzi, ma gli shock sarebbero stati presto digeriti, tanto più con il ridimensionamento delle quotazioni delle materie prime e la riduzione dei tassi, e la ripresa avrebbe potuto far capolino nella seconda metà del 2009. Invece l'era glaciale del credito, come l'ha battezzata Business Week, accentua le difficoltà delle famiglie e delle imprese su due fronti, quello della sfiducia delle prospettive economiche è quello del costo e della disponibilità del denaro. Ecco l'analisi che ci viene proposta, come dicevo, puntuale e ampia. Gli indicatori attuali di sentimento economico sono già molto bassi. Per Orlandia questo complessivo è al minimo dal 94. Questo è l'analisi. Ora, a proposito di Sole 24 Ore e di crisi finanziaria, voglio ricordarvi che stamane alle 8:30 il microfono aperto, che come vi ho già detto ieri non sarà più condotto da me ma dal nuovo direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi, avrà una novità, avrà un ospite, e questa mattina l'ospite sarà Adriana Cerretelli, editorialista, giornalista del Sole 24 Ore, che ci parlerà della crisi in Europa, la crisi finanziaria e l'Europa. Questo è sempre sul Sole 24 Ore. Voglio anche segnalarvi una intervista che trovate nel dorso finanziario Finanza e Mercati, dove parla il numero uno di RZB Group, che è sostanzialmente il colosso bancario che è primo competitor di Unicredit nei paesi dell'Europa centro-orientale. Ecco, il CEO di RZB dice: la tempesta non arriverà a est come è arrivata a ovest. Questo fatto sul Sole 24 Ore. Ora, a sempre a proposito di crisi, consigliabile una lettura interessante che c'è sul Messaggero. Enrico Cisnetto, osservatore, giornalista economico, scrive: l'Italia corre meno rischi ma paga la debolezza dell'Europa. Se per un momento distogliessimo gli occhi dai listini di borsa, sarebbe tutta salute, anche perché non sono propriamente la Bibbia, e guardassimo a quanto accade in Europa dopo che la crisi finanziaria mondiale ha varcato con decisione l'oceano, ci accorgeremo che l'Italia sta meglio, o se si vuole meno peggio degli altri paesi del vecchio continente. Quindi dice, fa impressione infatti vedere, scrive Cisnetto, vedere la Gran Bretagna che di colpo paga il prezzo, fino al punto di immaginare di nazionalizzare tutte le banche, di aver puntato tutto sulla finanza facendo di Londra la seconda capitale dei mercati finanziari mondiali, idea che per molti anni è stata vincente. Insomma, è non meno scioccante assistere alle difficoltà di Spagna e Irlanda, che con lo boom immobiliare e la crisi della finanza offshore hanno improvvisamente perso il loro status di paesi più dinamici. Tutto bene dunque perché l'Italia è al riparo, lo stellone ancora una volta ci ha salvato? Non è proprio così, guai a minimizzare, scrive Enrico Cisnetto. Dovremmo stare molto vigilanti rispetto alla situazione italiana. Ancora paura, crolla Wall Street, questo è il titolo del quotidiano La Repubblica, ma come avete sentito i titoli dei giornali diventano rapidamente vetusti, perché già le notizie del GR ci dicono di nuovi crolli dal Giappone, quindi insomma sembra che questa crisi, come dicono molti quotidiani, sia infinita, non finisca mai. E il quotidiano La Repubblica però si occupa anche di un caso, diciamo così, infatti il sottotitolo della prima pagina è: dietro front del governo, ritirata la legge salva Geronzi. Come abbiamo già segnalato ieri, sempre dal quotidiano La Repubblica, circolava una idea che dentro le pieghe, diciamo, del decreto all'Italia ci fosse una legge, un codicillo per salvare alcuni banchieri dai guai giudiziari. Ecco, vediamo cosa scrive La Repubblica. Alla ricerca del mandante, c'è il delitto scoperto da questo giornale insieme a Report, la trasmissione TV di Milena Gabanelli, l'ennesima norma ad personam infilata di straforo dentro il decreto sull'Alitalia e ritagliata su misura per salvare finanzieri come Tanzi, soprattutto banchieri come Geronzi. Ci sono i colpevoli, Angelo Maria Cicolani e Antonio Paravia, anonimi parlamentari del PDL, relatori dell'emendamento Peones, come lo furono nella precedente legislatura berlusconiana i Cirielli e i Nitto Palma, che mettevano la firma sulle peggiori nefandezze giudiziarie commissionate dagli avvocati del Premier. Voglio precisare che questo articolo di prima pagina non è firmato, quindi si potrebbe forse accreditare al direttore di Repubblica. Ma chi è il mandante di questa nuova legge vergogna che nel silenzio della maggioranza e nell'ignoranza dell'opposizione stava per passare al vaglio del Parlamento? Berlusconi dichiara: non ne sapevo niente, questo per lui è normale, come quando giura: non mi occupo mai delle mie aziende. Tremonti fa molto di più, ecco il punto, che poi è la notizia di oggi, cioè di ieri, che è oggi sui giornali: o va via l'emendamento o vado via io, annuncia nella solennità dell'aula di Montecitorio, e questo fa onore al suo rigore morale e alla sua serietà politica. Questo scrive La Repubblica, che quindi in qualche modo premia questa decisione effettivamente a sorpresa ieri per tutti, di Tremonti, che addirittura ha minacciato di dimissione al ministro se quella norma salva banchieri, diciamo così, fosse passata. Ecco, dice ancora La Repubblica, ma la domanda resta: chi è il mandante e che garanzia abbiamo che il centrodestra non riprovi a infilare da qualche altra parte la norma che salva con Geronzi il capitano di un nuovo assetto di potere economico finanziario che si sta organizzando attorno alla stella fissa del Cavaliere? Nessuno, purtroppo. Dal lodo Alfano al lodo Cicolani, questo è lo stile della casa, e poi si scandalizzano se qualcuno si preoccupa per le qualità della nostra democrazia. Il quotidiano La Repubblica riporta anche la notizia che avete sentito anch'essa nei GR: l'addio di Cofferati, non mi ricandido, scelgo mio figlio. Ma insomma, Edmondo Berselli ne fa un caso politico, perché dice, insomma, il sismografo della sinistra. Se ne va Sergio Cofferati, dice addio a Bologna, una probabile rielezione, perché fra il pubblico e il privato il sindaco di Bologna sceglie la nuova famiglia e il piccolo di pochi mesi. Edoardo, prevale l'amore per la compagna genovese, la scelta di una vita meno stressata dopo gli ultimi mesi frenetici da pendolare, e a questo punto, grazie a una decisione in perfetta controtendenza rispetto al maschilismo della politica tradizionale, la città delle due torri diventa nuovamente un laboratorio politico, come sempre è stato negli ultimi 15 anni. Beh sì, e qui qualche giornale avanza anche l'idea che, insomma, questa sia in qualche modo il ritiro a vita privata di Cofferati sia una sconfitta della sinistra, insomma. E poi lo stesso quotidiano invece affida a Tito Boeri, economista bocconiano, il mercato senza fiducia, secondo fiumi di inchiostro, questa crisi ridisegna i confini fra Stato e mercato. Per uscirne ci vorrà più Stato e meno mercato, si scrive ormai da mesi, anche su questo giornale. Non ci sarebbe niente preoccupante se si trattasse solo di una disputa dottrinaria, ma dice in un lungo articolo Tito Boeri, così non è. E se vogliamo rimanere sul decreto salva banchieri, chiamiamolo così, qualcuno ha chiamato salva Geronzi, voglio andare al quotidiano Il Riformista, perché Il Riformista propone addirittura un risico, Marco Ferrante, risique du rôle, che insomma è un gioco di parole. Sullo sfondo della crisi finanziaria si modificano i rapporti del potere nel potere economico italiano e gli equilibri tra potere economico e politica. Il baricentro dei movimenti è al Ministero dell'Economia. Per farsi un'idea di quello che sta succedendo bisogna partire da Giulio Tremonti. Governa la crisi con una specie di vantaggio psicologico che gli deriva dall'averla prevista. E secondo questa analisi, dice, nascosta dalla crisi imperversa la battaglia del potere, ci racconta questa, diciamo, questo retroscena sul potere finanziario. Quali sono tra le persone vicine a Giulio Tremonti secondo Il Riformista? Tra le persone con cui ragiona di questioni generali ci sono, tra gli altri, Marco Fortis, economista, vicepresidente della Fondazione Edison, pessimista sulla globalizzazione, e soprattutto Alberto Quadrio Curzio, professore di economia politica alla Cattolica, editorialista del Sole 24 Ore, vicino al gruppo Etica Finanza di Angelo Caloia. E poi un'altra cosa viene analizzata in questo, come dire, in questo risico del potere. I rapporti tra Giulio Tremonti e appunto Cesare Geronzi. Fino a ieri tutti davano per acquisita una salda intesa tra il ministro e Cesare Geronzi. Con il capo di Mediobanca chiusa una lunga stagione di battaglia, si è creato un solido canale di comunicazione. Geronzi, in una recente intervista a Ferruccio De Bortoli, ha detto che la vera novità, sto leggendo sempre Il Riformista, politica del governo Berlusconi è Tremonti. E solo due giorni fa Tremonti aveva tributato a Geronzi un ruolo straordinario nel vertice sulla crisi per fare il punto sulla situazione delle banche. Poi ieri la linea Tremonti-Geronzi ha subito un'incursione tattica da parte di Repubblica, che da quando Carlo De Benedetti ha preso la guida del gruppo Espresso, lo scontro con l'ingegnere e Geronzi ha preso un tono molto duro, diretto e franco. Repubblica, che aveva già ospitato in settimana un'intervista di Massimo Giannini a Profumo, ha pubblicato un'anticipazione di un'inchiesta di Report. Ecco, quell'anticipazione che probabilmente di cui abbiamo parlato anche prima e che probabilmente ha incrinato, si dice qui sul Riformista, i rapporti tra Tremonti e Cesare Geronzi. Vi sono anche altre analisi, per esempio si dice qui in questo segnale, che in questa retroscena, che Giulio Tremonti ce l'avrebbe col governatore della Banca d'Italia. Sin dall'inizio di questa quarta esperienza di governo, Tremonti, sto leggendo ancora, ha messo Draghi in cima alla lista degli obiettivi per due ragioni: il governatore era al tempo stesso il simbolo del liberismo messo in difficoltà dalla minaccia di crisi economica globale, e anche l'uomo più rappresentativo dell'elite tecnico-burocratica priva di consenso popolare, a cui il ministro ministro dell'economia, chiede di fare un passo indietro dopo l'egemonia degli anni 90 e della prima metà del 2000. Questo il quotidiano Il Riformista. Ora se noi ci trasferiamo sulla Stampa, il quotidiano torinese La Stampa, a parte che c'è ancora un, come dire, una foto indicativa di Tremonti e Tremonti affonda il, la salva manager, noi abbiamo Giovanna Zucconi che scrive un articolo su Cofferati. Se la sinistra si rifugia nel privato, Sergio Cofferati annuncia di non volersi più candidare a sindaco di Bologna per ragioni private, un modo pudico e asciutto per dire che un figlio piccolo e una nuova famiglia a 60 anni possono anche entrare in conflitto con gli oneri della vita pubblica. E sì, però si dice appunto, voci non amichevoli dicono che i sondaggi vedono favorito in un eventuale match tra personalità mature il redivivo Guazzalocca e che sarebbe un presagio di sconfitta, non una libera scelta personale, la vera ragione dell'abbandono di campo. Ma una volta tanto la motivazione ufficiale più calda e interessante dei retroscena politici e partitici. Non si hanno molte notizie di maschi che lasciano la politica e il potere per dedicarsi agli affetti e dunque benvenuto lo scandalo di un padre celebre che può far venire utili dubbi ad altri padri. La vicenda privata di una persona però non va confusa con un segnale politico inequivocabile che appunto è sintetizzato nel titolo Se la sinistra si rifugia nel privato. Alberto Bisin invece scrive chiarezza antipanico, il panico si è impadronito dei mercati finanziari e sembra oggi, le notizie di oggi al Giappone sembra confermare questa diagnosi. Nei giorni scorsi hanno reagito con nuove significative perdite a ogni tentativo di calmarli, dall'approvazione al Congresso degli Stati Uniti al piano di salvataggio alla concordata riduzione globale dei tassi. Ci sono due ragioni dietro il panico questi giorni. La prima è che negli Stati Uniti è stato ingenerato dalle autorità per indurre i cittadini ad accettare i costi di un salvataggio estremamente impopolare. La seconda ragione è che le autorità monetarie e il tesoro americano non sembrano avere un lucido e coerente piano di intervento. E sì, questa è probabilmente la vera ragione, l'incertezza delle autorità monetarie mondiali, nonostante sembrasse che ci fosse una unità, diciamo, di intenti. Questo il leggiamo sul quotidiano La Stampa. Abbiamo poi il Corriere della Sera. Dunque il Corriere della Sera, a parte che riporta le grandi notizie, FMI, recessione globale vicina, voglio segnalarvi due cose, una di carattere sindacale che potrebbe avere di Sergio Rizzo, che potrebbe avere insomma dei risvolti importanti sulle vicende contrattuali e anche nei rapporti con Confindustria, perché dice incontro segreto sui contratti tra Epifani e Bonanni, chissà se per mettersi d'accordo oppure no. E poi una notizia che già avevamo visto, ma insomma che fa una certa impressione, l'ex terrorista rosso che ora nega l'olocausto. Nel 70 Horst Mahler fu tra i fondatori della RAF, il gruppo terrorista di sinistra, oggi legato agli estremisti di destra dell'NPD. Mahler è sotto processo per aver negato l'olocausto, questo leggiamo sul Corriere della Sera in un articolo di Danilo Taino da Berlino. Il rapporto degli 007 USA, perdiamo l'Afghanistan. Sì, questa notizia di grande rilievo per quanto riguarda la politica internazionale viene enfatizzata tra gli altri anche ancora dal Corriere della Sera. Vediamo cosa scrive Olimpio da Washington. Stiamo perdendo l'Afghanistan, il paese è in caduta libera. L'allarme viene dagli 007 americani. In un documento riservato preparato da 16 agenzie di spionaggio si afferma che l'influenza talebana è in crescita, gli attacchi aumentano, il governo è debole, la corruzione dilaga e contribuisce a ridurne l'autorità. Nella bozza del National Intelligence Estimate, anticipata dal New York Times, si riconosce che sono stati compiuti progressi, ma vengono compromessi dalla sfida dei signori dell'oppio e dell'eroina, spesso collusi con esponenti del governo. Recentemente i sospetti sono caduti niente meno meno che su uno dei fratelli di Karzai, che è il numero uno dell'Afghanistan. L'intelligence USA però non limita il suo monito solo all'Afghanistan, dove secondo il segretario della difesa Gates si potrebbero avviare dei colloqui con i talebani, ma non con Al-Qaeda. Anche in Iraq la guerra può riesplodere, avvertono gli 007, e ancora si legge sì, che sotto leader criticato è proprio Hamid Karzai, presidente afghano, negli USA. Piace sempre meno. È un doppio messaggio rivolto all'attuale inquilino della Casa Bianca e al futuro presidente, che dovrà avere a che fare proprio con questi due nodi internazionali di grande peso. L'Iraq può riesplodere di nuovo, l'Afghanistan è in caduta libera. L'analisi severa è contenuta, appunto, come avete sentito, nella bozza della National Intelligence Estimate. Questo dal Corriere della Sera. Torniamo per un attimo alle vicende di casa nostra. Beh, intanto voglio segnalarvi dal quotidiano Il Giorno una notizia di prima pagina che mi sembra di non aver visto così con evidenza su altri quotidiani. Il Giorno titola: immigrati, l'anno del record, quasi raddoppiati i romeni, ora sono il gruppo più numeroso davanti agli albanesi. E l'attrice Ramona Badescu, rumena, consigliere di Alemanno, dice: se uno di noi sbaglia non colpevolizzate tutti. E il boom di arrivi è più 16,8% nel 2007, mai così tanti nella nostra storia. Questa è la notizia che viene diffusa dal quotidiano Il Giorno. Vi dicevo, se vogliamo tornare alle cose di casa nostra, però dobbiamo passare anche dal quotidiano Libero, perché Libero enfatizza, appoggia, opziona, diciamo così, la decisione di l'annuncio di Berlusconi, annuncia giù le tasse. Il premier deciso a superare la crisi rilanciando l'economia con provvedimenti drastici, imposte ridotte per le imprese e recupero di soldi dall'evasione fiscale. Silvio Berlusconi ha fatto benissimo ieri a dire che proprio questo è il momento in cui bisogna avere il coraggio di ridurre le tasse e sostenere l'economia reale. La speranza è che ora dia un seguito concreto alle sue parole, scrive Fausto Cariotti. Di sicuro coraggio gliene servirà molto, da un punto di vista contabile innanzitutto. Il Fondo Monetario Internazionale ha appena annunciato l'arrivo di una recessione globale e il governo, come si legge nel testo del decreto approvato mercoledì, si è detto pronto a usare soldi pubblici e anche in deroga alle norme di contabilità di Stato per sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Il Presidente del Consiglio, insomma, è chiamato alla coerenza. Ieri è stato chiaro, tutti ha annunciato, ci stiamo domandando come fare a uscire dalla crisi economica e uno dei modi è avere il coraggio di ridurre la pressione fiscale. Non si tratta dunque del solito impegno alla graduale e progressiva diminuzione della pressione fiscale sotto il 40% del prodotto interno lordo che il programma di governo prevede di attuare entro la fine della legislatura e che nessun ministro, almeno a parole, ha mai messo in dubbio. E il quotidiano Libero si occupa anche, il quotidiano di Cofferati, si arrende e se ne andrà. Ecco, Gianluigi Paragone ci racconta, io non ho tempo per andare a vedere come, ma ecco dove andrà, cioè, come dire, forse non si riterrà proprio a vita privata. Questo dal quotidiano Libero. Il foglio parla di panico quotidiano. E poi vi è una opinione di Franco Bruni, professore bocconiano, il quale dice: statalizzare il credito è un rimedio peggiore della crisi, parola appunto del professor bocconiano Franco Bruni. Non tutti gli economisti condividono la marea montante di interventismo pubblico nel sistema bancario che si sta delineando in tutta Europa sulla scia di quanto deciso dal governo inglese. E appunto l'opinione di Bruni è che non è buona cosa quello di nazionalizzare il credito o statalizzare il credito, insomma. Ancora dei titoli. Il Manifesto. Imbroglio creativo. I mercati vanno ancora a picco, il Fondo Monetario annuncia la recessione mondiale, ma Berlusconi rassicura. Il suo ministro del Tesoro dichiara la propria innocenza sulle norme salva manager e minaccia le dimissioni. Il governo ne promette il ritiro. La farsa è servita. Questo scrive il Manifesto, falsari di potere Gabriele Polo. E poi invece il settimanale Panorama. Beh, Panorama lo dedica al ministro Brunetta, meno 45%, l'unico crollo di cui non c'è da aver paura, tanto è sceso l'assenteismo negli uffici pubblici sotto la sferza del ministro Brunetta. Abbiamo già sentito trasmissioni di questo genere su questo tema, che promette adesso tutti gli italiani daranno le pagelle ai servizi di Stato e comuni. Vi ripeto, questa è copertina di Panorama. L'unità scuole statali, sciopero generale. Il 30 ottobre gli insegnanti si fermano contro i tagli e provvedimenti della Gelmini, oggi gli studenti in piazza e sul pubblico impiego indetti scioperi per il contratto. Io credo di aver quasi concluso il mio tempo, voglio di nuovo ricordarvi che alle 8.30 ci sarà il consueto microfono aperto, diretto però da questo momento in poi dal nuovo direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi, che avrà tutte le mattine degli ospiti. Stamattina tocca a Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, che si occuperà e sarà interrogata, diciamo così, sulla crisi finanziaria e l'Europa. Adesso concluso il mio tempo, quindi io vi saluto e come di consueto vi do appuntamento a domattina.